la sostanza nel caffè. Tu mi guardi e non sai cosa fare. Sudano le mani, vuoi solo provare a bere questa strana novità. Le tue amiche sono per me là. Bevi la sostanza dentro al bar. Il cuore batte forte, sembra di volare. Quanta adrenalina senti già. Dai, prova di tutto, siamo qua. Prova di tutto in città. Ti senti viva, di più di prima. Metto la sostanza nel caffè, bevo la sostanza insieme a te. Mi sembra di capire che tutto è naturale, fare certe cose dentro al bar. Le tue amiche sono per me là. Bevi la sostanza dentro al bar. Il cuore batte forte, ti sembra di volare. Quanta adrenalina senti già. Dai, prova di tutto, siamo qua. Prova di tutto in città. Ti senti viva, di più di prima. Dai, prova di tutto, siamo qua. Prova di tutto in città. Ti senti viva, di più di prima. Dai.